2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 20 e 21 agosto 2016. Benvenuti o bentornati a 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda durante l'estate, anche se la nostra estate è abbastanza breve. Il sabato e la domenica, durante l'autunno, l'inverno, la primavera, il venerdì sera e la domenica. Secondo un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT, circa il 90% delle auto private che circolano sulle strade oggi potrebbe essere sostituito da veicoli elettrici già disponibili sul mercato, quelli che vengono venduti oggi sul mercato. Tutto questo senza un aumento dei costi per le famiglie e con un guadagno in termini di impatto ambientale. Allora, ovviamente questo studio è stato realizzato sul parco circolante degli Stati Uniti, quindi non può essere sovrapposto alla situazione europea, però a grandi linee dice cose interessanti anche per l'Europa. Secondo la ricerca, una sola ricarica della batteria al giorno sarebbe sufficiente per percorrere i chilometri giornalieri tipici della maggior parte degli utenti. E questo direi è in linea anche con quello che accade in Europa. Uno utilizza l'automobile per andare al lavoro e molto spesso non fa più di 100-200 chilometri, insomma siamo in magari alcune decine di chilometri, poi uno porta a scuola magari i bambini, va a fare la spesa, fa qualche commissione, va a fare sport, insomma effettivamente se uno guarda alla propria famiglia, ai propri parenti, ma anche in generale non sono tantissimi i chilometri che uno fa ogni giorno con la propria automobile e quindi molte delle automobili elettriche, direi quasi tutte, si presterebbero a questi spostamenti. I ricercatori dicono per gli spostamenti più lunghi, beh, visto che sono comunque rari, si noleggia l'auto. Ovviamente questo non fa per chi lavora con l'automobile, quindi tutto il giorno è in automobile, però loro dicono il 90% degli utenti. Allora, secondo i ricercatori, sebbene il prezzo di listino iniziale sia più elevato, i minori costi di funzionamento e mantenimento dell'auto elettrica rendono la spesa complessiva dell'intero ciclo di vita del veicolo elettrico paragonabile a quello delle auto convenzionali. Ma la sostituzione del parco auto con vetture elettriche consentirebbe agli Stati Uniti di ridurre del 30% le emissioni generate dal settore trasporti. Quindi c'è sicuramente un beneficio per la collettività e quindi ben vengano gli sgravi fiscali, gli incentivi per acquistare l'auto elettrica, proprio perché ci sono dei vantaggi per la collettività di questo genere. Però ovviamente non sono vantaggi monetizzabili all'istante, perché se parliamo di riduzione dell'inquinamento i vantaggi ci sono e sono concreti, perché c'è una riduzione delle malattie, una riduzione della mortalità, eccetera eccetera, oltre anche al raggiungimento di obiettivi che tutti i paesi si sono dati. Però questo rende più difficile l'ideazione, la progettazione e poi soprattutto l'implementazione di vantaggi fiscali per i veicoli elettrici, che comunque ci sono una serie di vantaggi già oggi, ma effettivamente a livello fiscale non tanto. Dunque, alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Dunque, essendo agosto, essendo immersi nell'agosto, molte notizie arrivano dagli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti si lavora come sempre, business as usual, mentre qui, soprattutto in Italia, ma in generale in Europa, le attività sono un po' più rallentate. Allora iniziamo da una notizia importante per la storia di Internet. Dopo mesi di discussioni e trattative, gli Stati Uniti hanno approvato la proposta di trasformazione dell'ICANN, che è l'ente regolatore della rete Internet responsabile della definizione della convalida dei nomi dei domini web. I .com, i .it, i .info, eccetera, eccetera. Adesso ce ne sono veramente tantissimi. Dal 1 ottobre la supervisione tecnica della rete Internet verrà gestita a livello globale, condiviso tra tutti i paesi e non più solo dagli Stati Uniti. Quindi sicuramente una svolta epocale nella gestione della rete internet. Digital News. Uber e Volvo lanceranno fra pochi giorni a Pittsburgh negli Stati Uniti un servizio taxi con una flotta di veicoli a guida autonoma. Le auto verranno comunque supervisionate dal controllo umano con una persona che sarà seduta al posto di guida, ma il primo passo verso una flotta di auto che fra qualche anno non avranno più bisogno del pilota, considerate che attualmente ci sono circa 1 milione di autisti Uber nel mondo e l'obiettivo di Uber è di sostituirli con un computer. Sempre in tema di auto a guida autonoma, la Ford ha annunciato che nel 2021 metterà sul mercato un veicolo senza pedali né volante destinato al settore professionale e in particolare al settore taxi. Per arrivare a questo obiettivo servono sensori sempre più precisi e non è un caso che proprio questa settimana Ford e la cinese Baidu, che è il Google cinese, investiranno 150 milioni di dollari in Velodyne, che è uno dei principali produttori di LiDAR. Il LiDAR, scritto LiDAR, è un sensore laser molto preciso che molte auto che già oggi circolano in maniera sperimentale, molti veicoli automatici, hanno in dotazione. Digital News. La canadese Ecobee, che nel Nord America è il principale concorrente di Nest nella produzione di termostati intelligenti Wi-Fi, ha ricevuto un nuovo finanziamento da 35 milioni di dollari. Fra i finanziatori c'è anche Amazon, attraverso il fondo Alexa, che serve a sviluppare strumenti che si possano interfacciare con il servizio di assistente virtuale che si chiama appunto Alexa di Amazon, che per il momento non è disponibile in Europa. Un'ultima notizia riguarda Cisco, che licenzierà 5.500 persone in tutto il mondo, pari al 7% del totale, nell'ambito di un cambio di strategia che prevede più software e meno hardware. Questa è la cosa interessante per quanto ci riguarda, visto che ci occupiamo di tecnologia. Certo, sicuramente tutte le volte che ci sono notizie di licenziamenti c'è una parte di tristezza nella notizia, però dal punto di vista tecnologico il mondo IT sta andando verso una dimensione che prende il nome di Software Defined Infrastructure, cioè infrastruttura definita dal software, dove a fronte di hardware meno dedicati la differenza la fa il software che li fa funzionare, e anche Cisco deve andare in questa direzione. Questa settimana c'è stato a San Francisco l'IDF, che è l'Intel Developer Forum, cioè l'appuntamento per gli sviluppatori che ogni anno Intel organizza, come tante altre grandi società di tecnologia. Però ci sono stati alcuni annunci minori che servono per far parlare di Intel, magari alcune cose un po' sexy che fanno notizia, ma fanno notizia solo su alcuni media che guardano alle cose sexy, e sicuramente non determinanti per la strategia dell'azienda, che deve risistemare alcuni tasselli. Non tutti li ha sistemati, ma siamo sulla buona strada. Allora, di certo la notizia più importante riguarda l'accordo firmato fra Intel e ARM, l'azienda britannica da poco acquistata dalla giapponese SoftBank per 32 miliardi di dollari. ARM, lo ricordo, progetta e sviluppa l'architettura di processori che si chiamano appunto ARM, che sono utilizzati nella maggior parte degli smartphone e dei tablet. Si tratta di un'architettura che ha alcune caratteristiche adatte ai terminali mobili, prima fra tutte un buon equilibrio fra prestazioni e consumi. Però c'è chi progetta processori ARM su questa con questa architettura su licenza dell'azienda ARM e chi li produce. La novità è che Intel produrrà per conto terzi questo tipo di processori sfruttando il know-how e le fabbriche dove vengono già prodotti i processori per computer e server. Quindi non saranno processori marchiati Intel, ma saranno processori con vari marchi. Oggi le ricordiamo, i principali produttori sono sostanzialmente due. ce ne sono altri, ma direi che per dimensioni sono sostanzialmente due: Samsung e TSMC, che sta per Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, società che produce semiconduttori di Taiwan, quindi nome molto semplice. E quindi, tornando a come ha fatto il mercato, Apple ad esempio fa produrre i propri processori per l'iPhone a Samsung. Sembra strano, ma è così. Ed ora potrebbe ad esempio decidere di affidarsi a Intel, che è noto nel mercato, ha le migliori fabbriche, i migliori processi produttivi, e ha già tra l'altro trovato il primo cliente. LG farà produrre un nuovo processore per il prossimo anno, per il 2017, per telefoni di fascia alta. La notizia è molto importante per il mercato, anche perché Intel si è data una bella svegliata e rientra in un mercato dove i margini e la crescita sono più interessanti rispetto al mondo PC. Per un po' di tempo Intel aveva quasi snobbato il mondo ARM, aveva provato a proporre una propria architettura per il settore mobile, ma senza grandi successi, e quindi questa sicuramente è una notizia importante e da un certo punto di vista è anche una buona notizia per Intel. Altri annunci arrivati dall'IDF, dall'Intel Developer Forum. Il primo giorno è stato mostrato un visore per realtà virtuale che, a differenza dei due principali, ormai ce ne sono tanti, ma diciamo i due principali sono Vive di HTC, molto ben fatto, e anche Oculus Rift. Allora, questo visore, che non sarà un prodotto ma sarà un'architettura, poi vedremo chi lo produrrà, non ha alcun filo e quindi non deve essere collegato ad un computer, ha tutto a bordo. Questo è molto interessante perché sapete che questi visori molto potenti devono essere collegati con un computer, anzi un computer molto ben carburato, perché sennò la realtà virtuale che si gode all'interno di questi visori è tutto uno scatto. Si tratta di un progetto chiamato Alloy, sviluppato assieme a Microsoft, che tra l'altro lancia un nuovo concetto che è stato definito di merged reality, cioè un mix fra virtual reality e augmented reality, cioè un mix fra la realtà virtuale e la realtà aumentata, cioè è una realtà virtuale che prende un po' spunto anche dalla realtà che ci circonda. Questo progetto sarà disponibile nel 2017 e poi vedremo chi sarà a produrre questo visore. Poi sono state presentate una nuova serie di schede per Maker, molto piccole, molto potenti, e anche un kit per costruire un drone che parte da una piccola scheda chiamata Aero, e però tra qualche mese sarà disponibile sul mercato proprio un kit per farsi il drone in casa. Un'ultima cosa, prima di cambiare argomento, allora, un'altra cosa interessante dell'IDF è riguarda l'audio. Sono state presentate le specifiche del protocollo audio della porta USB tipo C. Sapete che c'è questa nuova porta USB che diventerà uno standard nei prossimi mesi, anni. Comunque ci sono già computer sui Mac, oppure su qualche raro computer c'è già la porta USB tipo C. E perché è interessante che siano state definite le specifiche audio? Perché, allora, se è vero che Apple vuole togliere il jack audio, quello delle cuffiette, dal nuovo iPhone 7 che verrà presentato a settembre, e contemporaneamente Intel presenta questa novità, mettiamo insieme i due indizi e capiamo come potrebbe cambiare anche il mondo dell'audio. Tra l'altro è una delle poche cose analogiche rimaste sui terminali mobili, il jack audio, che ha una storia lunghissima e nel giro di poco tempo potrebbe scomparire a favore di questa nuova porta USB. Approfittate dell'estate per riascoltare le nostre vecchie puntate. In podcast trovate le ultime 30 puntate di 2024, oppure sul nostro sito internet potete andare indietro di anni nel nostro archivio, quindi www.radio24.it. Ma comunque il consiglio è quello di abbonarsi gratuitamente al servizio podcast. Se non sapete come si fa, scrivetemi una bella email: 2024@radio24.it. Adesso vi ripropongo un'intervista che ho realizzato